Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo qua, c'è Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Allora direi, vogliamo a sentire il nostro sommario. Tocca i punti giusti con l'agopuntura. Sai tenere il ritmo? Potresti essere un gran cervellone. Fegato, una strada in più per contrastare la carenza di organi. Aghi che curano. Oggi parliamo di agopuntura per il trattamento del dolore. Ispezioneremo palmo a palmo le zone in cui si localizza il dolore. Partiremo dall'alto, dalla testa, poi scenderemo lungo il collo sino ad arrivare alla schiena. Spesso dolorante, tesa, contratta. Ma come sempre sarete voi con le vostre domande a dare modo ai nostri ospiti di fornirvi tutte le informazioni utili per diventare più competenti e quindi per scegliere meglio. Cercheremo di capire in che modo gli aghi spengono, calmano o possono distanziare gli attacchi dolorosi, lo faremo con i risultati delle ricerche alla mano. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Crepaldi, presidente della Fondazione Matteo Ricci di Bologna e medico agopuntore esperto in medicina tradizionale cinese. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Dottor Crepaldi, è vero la storia che si racconta sul medico di medicina tradizionale cinese che veniva praticamente licenziato quando il suo paziente si ammalava? Allora, questa è una storia che anch'io ho sentito. Io non l'ho trovata in un testo, ma non è che io sia andato a leggere molti testi storici, però di sicuro la medicina cinese ha tutta un'impronta di tipo preventivo. Ecco, quindi al di là della vericità. Al di là del detto che c'era anche quello delle lanterne, che il pessimo medico gli venivano poste le lanterne davanti alla casa. No, per essere scelto. O non Senta, dottor Crepaldi, io vorrei, se possibile, che lei iniziasse da un confronto tra la nostra medicina e la medicina tradizionale cinese, per poi arrivare all'agopuntura, non ai fini di consigliare l'uno o l'altra, anzi mi sembra che ormai sia accettato l'idea che sono sempre più complementari, i migliori risultati si ottengono dalla sinergia, ma per farci capire qualche cosa di più di questo tipo di medicina che ha delle basi diverse dalla nostra, e poi andrei a capire perché gli aghi curano e funzionano e non c'è un corrispettivo di un trattamento con gli aghi nella nostra medicina, o sbaglio? No, corrispettivo no, ma proprio perché la natura delle due medicine, cioè l'origine, direi, il punto, anche l'approccio è completamente differente. È differente, ma direi complementare. Sì. Per spiegarlo io uso sempre la formula di Einstein, per carità. Che è quella che ha rivoluzionato la fisica tradizionale, che è l'energia uguale a una relazione con la materia. La medicina occidentale studia la materia, misura la materia con tutti i suoi strumenti, i microscopi, gli esami di laboratorio, eccetera. La medicina cinese invece misura l'energia, che è una cosa impalpabile e che però anche gli ultimi studi, soprattutto della fisica moderna, hanno ampiamente dimostrato. Per cui le due medicine sono assolutamente complementari, laddove opera una non opera l'altra. E possono operare assolutamente insieme. Allora, i miei amici da casa, li invito a chiamarci all'824-0024 per sapere se l'agopuntura può essere magari indicata al caso, al loro problema, al loro dolore. Anche raccoglieremo le storie di chi l'agopuntura la sta già provando, l'ha provata, per capire come ha funzionato. I messaggi al 349-238-6666. Ma cerchiamo di capire come fanno gli aghi a calmare o a togliere il dolore. L'azione antalgica dell'agopuntura è ormai provata da numerosi studi. In linea con noi abbiamo il dottor Alfredo Vannacci, ricercatore all'Università di Farmacologia dell'Università di Firenze. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottore, siete riusciti a capire attraverso quali meccanismi l'applicazione di questi aghi in punti specifici del nostro corpo riesce ad avere un effetto antidolorifico? Guardi, la cosa comincia a essere abbastanza chiara, perché indipendentemente dalle teorie che stanno alla base della medicina tradizionale cinese, di cui ci parlava il dottor Crepaldi e di cui parlerà ancora più avanti, il fatto di inserire degli aghi all'interno dell'organismo chiaramente trova le strutture anatomiche che noi tutti conosciamo all'interno del corpo. Quindi chiaramente quando si inseriscono gli aghi si trova la pelle, si trovano le terminazioni nervose, si trovano i vasi. E proprio su queste terminazioni vanno ad agire gli aghi. Sì. Come la trasmissione del dolore è un meccanismo noto, quando lo sappiamo tutti, quando ci facciamo male, lo stimolo viene dalla periferia, si dice dal luogo che è stato colpito, facciamo l'esempio una mano, viene trasmesso lungo le fibre nervose fino al midollo spinale, poi sale fino al cervello ed è nel cervello che sentiamo il dolore, sì, anche se lo stimolo è avvenuto nella mano, no? Quindi l'agopuntura agisce su tutti questi passaggi, sulla parte periferica, quindi nel punto dove andiamo a inserire l'ago. Spesso gli agopuntori inseriscono gli aghi in punti dolorosi, e quindi agisce localmente. Poi certo, si inseriscono aghi magari in altri punti che agiscono a livello del midollo spinale, perché stimolando i nervi si dice che chiudono la trasmissione del dolore, come se fosse un cancello, come se nel nostro midollo spinale ci fosse un cancello che si può aprire o chiudere facendo passare o non passare lo stimolo doloroso. Penso è come il vecchio concetto della mamma che fa la carezza sulla mano del bambino che si è fatto male. Stimolando con la propria mano, con uno stimolo diverso, non doloroso ma tattile, inibisce la trasmissione del dolore a livello centrale. Quindi questo è il secondo punto. Il primo punto è in periferia, diciamo direttamente sulla mano, per esempio stimolando con l'ago una zona infiammata in determinate situazioni si può aumentare la circolazione del sangue, quindi migliorare lo stato dei tessuti a livello locale, oppure a livello del midollo spinale, facendo come se fosse la carezza della mamma che chiude il cancello e la trasmissione dolorosa, oppure ancora direttamente a livello centrale. Ci sono numerosi studi, sono i più recenti, sono i più interessanti scientificamente, che con le nuove metodiche di cosiddette di imaging funzionale, per esempio la risonanza magnetica funzionale o la tomografia emissione di positroni, vanno a studiare come le aree cerebrali che controllano la sensazione dolorosa si accendono, si spengono dopo la stimolazione con gli aghi. E quindi si può agire anche a questo terzo livello, in periferia, a livello spinale e addirittura a livello centrale. Dottore, ma mi scusi, l'agopuntura per quale tipo di dolore è particolarmente indicata? Acuto, cronico, muscolare o altro? Tutti i tipi di dolore? Non tutti i tipi di dolore, perché l'agopuntura è piuttosto efficace nel dolore e in alcuni casi si è dimostrata efficace quanto se non più dei farmaci che usiamo noi comunemente in medicina occidentale. Però non tutti i farmaci funzionano per il dolore, non l'agopuntura funziona su tutti i dolori chiaramente. Certo. Però ci sono alcuni studi, come per esempio quelli sulla cefalea, dove l'agopuntura funziona molto bene. Penso non ci sia cioè veramente pochissimi studi nei quali l'agopuntura non è risultata efficace per la cefalea. È vero anche che in molti studi non è necessario fare l'agopuntura secondo i criteri della medicina tradizionale cinese per avere un'efficacia sulla cefalea, cioè quello di cui parlerà il dottor Crepaldi, immagino. La medicina cinese ha una serie di teorie, di meccanismi seguendo i quali si applica gli aghi in determinati punti e non in altri. Ecco, nella cefalea è stato visto che questo metodo funziona, però funzionano anche altri tipi di agopuntura, molto più semplici, molto più superficiali, nei quali non vengono seguiti questi principi. Comunque, in ogni caso, il dolore diminuisce. Ed soprattutto è provato, è questo, perché noi vogliamo parlare dell'efficacia degli aghi misurata dagli studi scientifici. In questa per nostra... esempio, cefalea, soprattutto quelle a carattere muscolo-tensivo, ma in alcune forme di emicrania, nella lombalgia ci sono molti studi a favore. E poi ci sono anche altre condizioni nelle quali l'agopuntura tradizionale cinese si è dimostrata superiore all'altro tipo di agopuntura non tradizionale, diciamo. Quella che noi oggi, dottor Vannacci, parleremo di dolore, scende dalla testa ai piedi, quindi ci soffermeremo in delle zone particolari. Parleremo anche di uno studio abbastanza recente che ha misurato l'efficacia degli aghi per il trattamento del dolore del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Dottor Vannacci, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata anche a lei e agli ascoltatori. Grazie, noi torniamo dal nostro dottor Crepaldi, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio. Partiremo dall'alto, abbiamo detto quindi testa e collo, poi cefalea cervicale, poi scenderemo la schiena, ma siamo pronti a fare delle deviazioni. Voi naturalmente dovete prenotare le fermate chiamando il nostro numero verde 800 24 0024. Dottor Crepaldi, sono già arrivati dei messaggi, se riusciamo già a rispondere ci portiamo avanti. Il primo messaggio ci arriva da Carlo: la mia cervicalgia peggiora con il vento. È curabile? Sì, direi proprio di sì. Qui apre tutto una questione dell'influenza che il tempo, diciamo così, ha sul nostro, il clima ha sul nostro organismo. La medicina cinese è molto attenta a questo tipo di problema, mentre la nostra medicina, ad esempio, l'ha un po' dimenticato. Sì. Quindi le cervicalgie da vento nella medicina cinese sono molto presenti, perché il vento è una di quelle, di quei climi, di quelle situazioni che agevolano, in cui l'organismo, alcuni organismi possono essere più sensibili. Esistono ad esempio in medicina cinese dei punti che vengono chiamati punti vento, ad esempio ce n'è una nel collo, sì, proprio sotto l'occipite, che è un punto vento ed è sensibilissimo. Quando uno ha la cervicalgia generalmente è un punto dolente. E se io me lo massaggio passa il dolore? Se uno lo massaggia passa, dolore può essere diminuito sicuramente. Dottor Crepaldi, rispondiamo ad Adele. Il colpo di frusta si cura con l'agopuntura? Diciamo sì o no e poi nel corso della nostra trasmissione sì, ci torniamo. Sì, sì, diciamo di sì, anche se che il colpo di frusta è sempre una situazione abbastanza problematica. Allora, voi continuate a chiamarci, a scriverci, tra poco ci occuperemo del dolore, inizieremo ad occuparci del dolore che interessa la testa e il collo. Noi abbiamo già avuto modo, nella puntata dedicata alle emicranie, di sapere che gli aghi per le emicranie hanno un'azione preventiva, non curano cioè l'attacco acuto, semmai distanziano gli attacchi. Ma per altri tipi di cefalea, ad esempio, dottor Crepaldi, quella grappolo tensiva, potremmo dare delle indicazioni aggiuntive, vero? All'agopuntura sicuramente, sicuramente nel campo di cefalee l'indicazione principale è quella dietetica. Quella dietetica, e parleremo quindi anche di dieta oltre che di aghi. 824 0024, iniziate a chiamare il nostro numero verde, il dottor Crepaldi rimane con noi sino alle ore 12. Una mela al giorno. Al vostro piede bastano 3 note per battere il ritmo? Ebbene, allora, se rientrate in questo gruppo di persone, un gruppo di ricercatori svedesi si è occupato del vostro caso, perché è stato pubblicato uno studio secondo cui il senso del ritmo e l'intelligenza sarebbero strettamente collegati. Ne parliamo oggi insieme alla dottoressa Erika Sibillo, esperta di musicoterapia, che è tornata a trovarci. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Sì, insomma, mi viene da pensare, il professore prima parlava di Einstein, e me lo immagino mentre prima di fare le sue scoperte sulla relazione con la materia è lì che batte tamburella, un bel ritmo per stimolare anche la sua intelligenza meravigliosa. Ma in realtà, a parte gli scherzi, la ricerca, come lei accennava, ha veramente una validità, è stata riconosciuta anche in ambito neuroscientifico. Perché? Allora, lo studio si è svolto in 2 tempi. Nella prima fase i partecipanti sono stati sottoposti a quelli che chiamiamo i test sull'intelligenza, mentre nella seconda fase è stato chiesto di battere dei ritmi molto semplici e regolari. Allora, sì, i risultati cosa hanno dimostrato? Che coloro che riuscivano a tenere il tempo in maniera più precisa, guarda caso, erano quelli che avevano ottenuto il maggior punteggio ai test per l'intelligenza. Ma scusi, non è finita, perché coloro che avevano ottenuto i migliori risultati si è visto che hanno una maggiore attività dei lobi frontali del cervello, per farla in breve, cioè sì, di quell'area cerebrale in cui hanno luogo tutti i processi di programmazione, risoluzione, gestione dei nostri problemi nella nostra vita quotidiana. Quindi i ricercatori a cosa sono arrivati? Sono arrivati a stabilire che coloro che non riescono a tenere un ritmo con precisione avrebbero una sorta di rumore di fondo nel proprio cervello che andrebbe a disturbare l'attività cerebrale che è proprio coinvolta nel tenere il tempo. Quindi bisognerebbe spegnere questo rumore di fondo? Sì, lo possiamo spegnere con una cosa molto semplice, allenando il nostro cervello, quindi facendo prova con noi stessi, con un tamburello di fortuna. Non abbiamo bisogno di avere un tamburo gigantesco, basta un cestino di casa, una bacchetta, dei bastoncini o anche le nostre stesse dita, ad esempio. Poi se avete dubbi sul fatto di essere in grado o meno di suonare un tamburo, vi assicuro che non ci possiamo sbagliare. un piccolo esercizio che vi suggerirei è questo, cioè prendete, fatevi un ritmo dentro di voi, che all'inizio vi sembrerà un po' noioso, un po' monotono, ma vedrete che poi vi coinvolgerà e ci coinvolgerà molto spontaneamente. Andiamo oltre, chiudiamo gli occhi, proviamo a ricercare nel nostro corpo il battito del nostro cuore. A questo punto prendiamo i bastoncini che abbiamo ritrovato, il nostro tamburo e cerchiamo questo ritmo che accompagni il battito del nostro cuore, che poi non è poi così difficile, eh? Allora, continuiamo con questo stesso ritmo per qualche minuto, proviamo poi a raddoppiare il tempo, riportiamoci al ritmo iniziale fino a ridurlo poi della metà. Insomma, sapete quanto tempo vi porterà via questo esercizio? Al massimo 10 minuti, ma vi assicuro che gli effetti energizzanti, la sensazione di benessere ci accompagnerà davvero per tutto il giorno. E alla fine, visto gli studi svedesi sull'intelligenza, su tutti questa relazione importante tra musica e intelligenza, vedrete che forse riusciremo a risolvere con soluzioni e intuizioni nuove anche i nostri problemi quotidiani. Tamburellando. Dottoressa Sibille, proprio al tema della musica e del rapporto con il cervello, leghiamo il nostro consiglio di lettura di oggi. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop potete ricevere a casa il libro dal titolo Musicofilia di Oliver Sacks, Adelphi Editore. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta elettronica, che vi ricordo è essere benessere@radio24.it. In questa mail dovete mettere il titolo del libro, i vostri recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Dottoressa, allora lasciamoci tamburellando un po' le dita, intanto proviamo già a allenarci, poi proveremo a seguire i suoi consigli e le sue indicazioni e le faremo sapere. Intanto per il momento la saluto e la ringrazio. Grazie a tutti voi e buona musica a tutti. Buona musica anche a lei, buona giornata. A voi. Pronto soccorso. E torniamo al tema del giorno, aghi che curano il dolore. Dottor Crepaldi in linea con noi, è giusto dire curano o mi sto allargando? No, curano è giustissimo, perché il nostro motto è curare sempre, guarire quando è possibile. Curare sempre, guarire quando è possibile, vediamo se possiamo essere d'aiuto a Luisa che ci chiama da Milano, 800 24 00 24. Luisa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. La mia domanda era relativa al mal di schiena, naturalmente, soprattutto per la zona cervicale, nel senso che io ho un po' di tempo che soffro di un mal di schiena diffuso, ma penso che si tratti di tensione muscolare. Ho la parte fredda, soprattutto nella zona cervicale al tatto, e volevo sapere se l'agopuntura poteva essere di beneficio. Grazie Luisa. Dottor Crepaldi, una bella domanda. Beh, la risposta è assolutamente positiva, cioè io adesso non so l'età, non ho fatto le diagnosi, perché ho bisogno di vedere il paziente anche per fare la diagnosi, ma sicuramente direi che è assolutamente affrontabile con l'agopuntura. Essendoci la situazione della zona cervicale fredda, nell'agopuntura viene aggiunto un'altra cosa che forse è la modalità terapeutica più antica del mondo, che è quella della somministrazione del calore. Sì. Che avviene attraverso la moxibustione. Cos'è? La moxibustione sono praticamente è una lana di Artemisia, che è una pianta anche della zona mediterranea, che viene seccata, viene ridotta come ad un sigaro, viene accesa e si scaldano i punti di agopuntura. È una tecnica antichissima che viene usata ed è efficacissima proprio in situazioni tipo questa, dove ci sono zone fredde. Poi bisogna fare bene la diagnosi, bisogna mettere bene i punti, però direi che questa è sicuramente un caso dove l'agopuntura può veramente dare un grande sollievo. Dottor Crepaldi, quando parliamo di cervicale sappiamo che le cause possono, a monte, possono essere diverse: un trauma, una degenerazione, un colpo di freddo, le tensioni che accumuliamo durante la giornata, quindi importante è fare una diagnosi, arrivare già magari dal medico agopuntore con una diagnosi. Allora, per arrivare dal medico agopuntore non c'è bisogno di una diagnosi occidentale. Sì. Però direi che per cui si può benissimo andare, soprattutto nelle cose di tipo direi lievi, arrivare da un agopuntore anche senza aver fatto tutto un iter diagnostico e strumentale, che sono gli iter diagnostici e strumentali che sono tipici della nostra medicina. Se però le forme sono croniche, se abbiamo dei problemi di cefalea, se le questioni possono essere importanti, io dico sempre che sarebbe stupido non fare degli esami, gli esami che noi possiamo fare. Certo, che sono a disposizione, che permettono di inquadrare meglio il problema. Perché mi sembra giusto utilizzare tutte le modalità diagnostiche per arrivare a una diagnosi. Si può fare una diagnosi occidentale ed orientale. Certo. Poi si fa la terapia. E poi si intrecciano, perché certo, una non è in contrapposizione all'altra. Per cui io quando un paziente mi chiede se deve portare tutti gli esami eccetera eccetera, le dico: guardi, a me personalmente per fare il lavoro che devo fare non servono, però me li porti tutti perché così guardiamo tutto. Silvia ci chiama da Livorno, 800 24 0024, poi ho tantissimi messaggi da leggerle, dottor Crepaldi. Silvia, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, un po' lontanina, ma la prendiamo sì. Così. Ecco, adesso vorrei meglio. Vorrei sapere se l'agopuntura è utile nell'insonnia e nell'ansia. Silvia, grazie. Dottor Crepaldi. Beh, proprio l'insonnia, sì, direi di sì. Ci sono degli studi scientifici sull'insonnia che non sono così... cioè che non danno l'agopuntura così efficace come sul dolore. Sì. Direi che l'area del dolore, come diceva anche Alfredo Vannazzi, è quella che ha più rilevanza scientifica occidentale. Sull'insonnia diciamo che ci sono degli studi che sono una via di mezzo, però direi sicuramente sia l'ansia che l'insonnia che si trattano con l'agopuntura. Tante volte è proprio l'ansia ad amplificare la nostra percezione, la nostra sensazione dolorosa. Ah, certo. Beppe ci scrive: ma non fanno male gli aghi infilzati, dottor Crepaldi? E un altro SMS ci dice: ma dopo aver infilzato l'ago esce il sangue? Allora, gli aghi non contengono liquido. Il dolore, ad esempio, che noi avvertiamo quando facciamo un'iniezione classica, direi, sì, dei nostri farmaci, c'è un piccolo dolore che è quando l'ago passa la cute e naturalmente colpisce le terminazioni nervose, sì, e provoca un piccolo dolore. E poi l'altro, il dolore più forte è quando viene iniettato il liquido. Sì. L'agopuntura ha solamente, sono aghi molto sottili, e proprio il primo impatto è quello doloroso. Dopo l'ago rimane in sede, non, in genere provoca una sensazione di pesantezza, sì, ma non di dolore. Non di dolore. Sono molto sopportabili. Poi in genere, a meno che non si usi una tecnica particolare di sanguinamento, ci sono nell'agopuntura delle sì, tecniche di sanguinamento, in genere non dovrebbero sanguinare. E siamo tornati insieme, 824 0024, in questa puntata dedicata interamente all'agopuntura, ma in particolare cercheremo di capire come e perché gli aghi riescono a curare, a calmare il dolore. In linea con noi abbiamo il dottor Renato Crepaldi e in linea ad aspettarci abbiamo Vincenzo che ci chiama da Napoli. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo per una problematica che diciamo ho da circa 15 giorni. Ci sono iniziati dei dolori reumatici al diciamo al torace, sì, e si sono poi esplosi diciamo raggiungendo anche il braccio e anche altre articolazioni del corpo. Spaventato della cosa ho fatto delle analisi diagnostiche, sì, in particolare ho fatto anche torace ecocardiogramma perché preoccupato diciamo di un dolore cardiaco. Sì. Scongiurato questo mi hanno detto di fare l'analisi del sangue e è uscito solo diciamo un po' calcolato i valori del TAS. Sì. Io volevo chiedere, dato che adesso sto assumendo degli antibiotici, anche dei prodotti per salvaguardare quello che è l'aspetto gastrico della situazione, sì, volevo chiedere se li potevo sostituire con una terapia di tipo diverso e in questo caso con l'agopuntura. Io penso che sostituzioni senza parlarne con il proprio medico curante non siano mai una buona idea, Vincenzo, ma sentiamo il dottor Crepaldi se è in grado dalla sua telefonata, vero, sostituzioni così sostituzioni al telefoniche sono rischiose. Quando si inizia un trattamento antibiotico mai. Cioè, voglio dire, ecco qua che viene fuori il medico occidentale, No, ma no, assolutamente il medico punto e basta. Sì. cioè una terapia che si inizia, la si continua, la si verifica, perché il trattamento antibiotico poi, e come tutti i trattamenti, bisogna cominciare a verificarli. Sì. Si può aggiungere delle cose sapendo che si possono aggiungere. Allora l'agopuntura, ad esempio, si può sicuramente aggiungere, perché non va a interferire con il tipo di mission che abbiamo, che è quella di curare. Per cui, però qui in questo caso bisogna terminare gli antibiotici, verificare il livello del TAS, eccetera, eccetera. E se poi permangono le forme di artralgia, eccetera, si può benissimo trattare. Bisognerebbe fare anche degli altri esami, volendo, sì, e si possono poi trattare anche con agopuntura. Ma questo non è assolutamente in contraddizione. Non è un'alternativa. Io vorrei fermarmi un attimo, il dottor Crepaldi ci aspetta, perché abbiamo raggiunto il professor Luciano De Carlis, che è direttore dell'unità operativa di chirurgia e trapianti di fegato all'ospedale Cagrandani Guarda di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Con lei voltiamo temporaneamente pagina, ma lo facciamo volentieri, perché c'è una nuova tecnica che rappresenta una strada per contrastare la carenza di donazione di organi. Parliamo di trapianto di fegato. Professor De Carlis, che cosa c'è di nuovo? Beh, diciamo, è una tecnica che non potrà mai avere una grossissima espansione, ma questo perché noi dobbiamo fare questo tipo di performance chirurgica in pazienti che hanno una malattia non frequentissima, quella della amiloidosi. Sì. Però questa è una possibilità che abbiamo, al di là delle varie tecniche già utilizzate, tipo il trapianto da vivente. Noi siamo uno dei centri più attivi sul trapianto da vivente, oppure dello split liver, anche su questo, perché abbiamo la possibilità da un donatore cadavere di poter poi dopo utilizzare due fegati, per cui poter fare due trapianti su pazienti che hanno veramente necessità di questo. Il fatto di poter utilizzare questo fegato di una paziente che ha una amiloidosi, per cui un fegato sano di per sé, però con una malattia genetica che provoca la deposizione di una proteina anomala nei vari tessuti, soprattutto nel cuore, soprattutto nei nervi periferici, nei nervi del sistema simpatico, fa sì che utilizzando questo fegato per un trapianto, una paziente magari su oltre i 60 anni con una patologia grave, con una patologia terminale dal punto di vista epatico, ci consente di fare un trapianto in più rispetto a quello che sarebbe consentito dalla donazione cadavere. Diciamo che questa amiloidosi, se dovesse ripresentarsi, non è detto che si ripresenti nel paziente trapiantato, si presenta comunque non prima dei 30-40 anni, per cui quando il paziente ha un'età prossima ai 100 anni, per cui questo è la logica di questo tipo di trapianto. E parlando di trapianto, e soprattutto facendolo con il professor Luciano De Carlis, viene spontaneo l'invito a donare gli organi. È un periodo che soprattutto in regione Lombardia c'è stato un calo drastico. Sì. Non so perché, ecco, ci sono sempre un po' degli alti e bassi, ma insomma io penso che il trapianto di fegato, il trapianto di cuore, ma anche il trapianto di rene, di pancreas, sono trapianti che veramente consentono una, prima di tutto in certi casi come il cuore e il fegato, un trapianto salvavita, per cui veramente una ripresa della propria vita, delle proprie capacità vitali, ma anche nel caso del trapianto di rene o del pancreas si hanno dei vantaggi enormi. La donazione è fondamentale, la donazione da cadavere, non ci devono essere indugi su questo, né indugi. Ecco, a volte notizie come quelle di confusione che vengono fatte a volte dai media, cioè tra il coma, tipo il coma di quella ragazza, ecco, coma vegetativo, eccetera, con la morte cerebrale, non devono esistere. La morte cerebrale è una certezza. Professore, io la ringrazio, e quindi questa è una nuova strada che hanno trovato i medici, che però noi siamo un po' nelle mani dei donatori. Grazie, sì, professor De Carlis, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie mille. Grazie. Dottor Crepaldi? Siamo tornati a lei. Una domanda interessante mi arriva da un ascoltatore che ci scrive: sarebbe interessante conoscere se l'agopuntura toglie la causa oltre al dolore. Il dottore ci dice qualcosa in proposito? È un discorso abbastanza... Intanto bisogna vedere che tipo di causa. Mm. Diciamo così che per quanto riguarda i dolori di cui stiamo parlando, che sono sostanzialmente la cervicalgia e la lombalgia, sì, l'organismo umano ovviamente ha un percorso nella vita, per cui ci sono lo scheletro, i nervi, tutte le parti, sì, cartilagine, eccetera, che si consumano, e quindi a questo punto Questo non si può togliere. No, gli anni che passano e la degenerazione. Non li possiamo togliere. Sì. Per cui si può sicuramente, lavorando con la medicina cinese soprattutto, e la medicina cinese ha delle armi in più rispetto alla nostra medicina, si può rallentare la degenerazione dei vari tessuti e dei vari organi. Questo è anche un po' il principio di tutta la dietetica, di tutte le ginnastiche mediche, dell'agopuntura. Cioè, quindi si può sicuramente, rispetto a queste forme di dolore, sicuramente agire sul dolore in quanto tale, ma fare in modo che ci sia un rallentamento della degenerazione. Abbiamo Antonio che ci chiama da Vicenza. Antonio? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, Antonio. Grazie intanto per avermi richiamato. Eccoci in linea con noi, Antonio. Antonio, siamo grazie. Pronti, è arrivato il suo momento, come si dice. Grazie. Allora, io chiamo per conto di mia moglie, la quale è stato diagnosticato un'usura della cartilagine ad un ginocchio. E volevo sapere se con l'agopuntura si può intervenire. In parte mi è già stato risposto, nel senso che abbiamo capito che l'agopuntura può lenire il dolore, ma non può togliere la causa per, sì. per cui è provocato il dolore. Perché sua moglie ha dolore, Antonio? Mia moglie ha un dolore lancinante, quasi invalidante in alcuni momenti della settimana o del mese al ginocchio sinistro. Al ginocchio sinistro. Grazie Antonio. Dottor Crepaldi, signora. Si interviene quando il dolore è acuto o bisogna che il dolore passi e si fa poi prevenzione? Allora, si può intervenire sia sul dolore acuto che anche quando il dolore è cronico. Sì. In genere la tradizione dice che sulla questione del dolore acuto bisogna non intervenire nella parte proprio dove c'è il dolore. Quindi non mettete gli aghi sul ginocchio. Però della moglie di Antonio. Bisogna sempre vedere. Anche qui bisognerebbe sapere la signora quanti anni ha, ad certo. esempio. Perché queste sono delle notizie assolutamente. Bisogna vedere tutto lo stato della situazione. Però possiamo dire. Sicuramente, ad esempio, in un caso come questo, l'agopuntura interviene su due situazioni: sulla questione del dolore, ma anche ristabilendo quella che noi chiamiamo la circolazione energetica, che è un termine che la medicina occidentale non può comprendere, ma però nella medicina cinese è molto presente, cioè ristabilendo, diciamo così, l'energia, il flusso energetico del ginocchio, si possono anche avere dei miglioramenti da un punto di vista della causa. Diciamo che in questo caso c'è una perdita di cartilagine, è difficile che certo. possa sostituirsi, però sicuramente migliorare la situazione sì. Dottor Crepaldi, parliamo anche di tempi di cura. Le sedute, quante sedute servono in media? In queste forme croniche, direi così, nelle forme acute dipende proprio dal risultato che si ha. Certe volte ci sono delle risposte assolutamente sorprendenti e non occorre fare molte sedute, sì. direi, possono anche addirittura bastarne una. E nelle forme in genere croniche io direi che è consigliato un ciclo completo di agopuntura che è di 10-12 sedute, di cui due settimanali. Sì. Quindi stiamo parlando comunque di un dato statistico, non stiamo parlando di ognuno, bisognerà impostare, ma comunque in linea di massima è così. Sono 10-12 sedute settimanali. Se poi la risposta è positiva alla terapia, io in genere consiglio sempre una ripresa mensile. Un richiamo, diciamo così, tra virgolette. Andiamo da Paola che ci chiama da Imperia. Buongiorno Paola. Buongiorno signora, grazie di avermi chiamato. Io volevo parlare sì? Di un problema che mi è sorto circa 3 anni fa. A causa di una grave malattia di mio marito, sì? La mia attività fisica si è ridotta notevolmente, sono stata molto in casa sì. e parecchio seduta. Ho iniziato ad avere dei dolori all'inguine sì? Che man mano sono diventati sempre più forti. Periodi in cui non avevo nulla e periodi in cui mi ritornavano fortissimi. Sì. Ho fatto degli accertamenti radiologici all'ANCA, sì. Non è risultato granché se non un accenno minimo di artrosi. Meglio, Paola? Il mio medico parlava di pubalgia. Io lo chiamo dolore all'inguine. Sì. Ultimamente, 3-4 giorni fa, mi è capitato, dopo essermi seduta a una panchina, di alzarmi e non riuscire più a camminare. Con dolori lancinanti. Magari se ci fosse stato lì il dottor Crepaldi le metteva due aghetti, o no, dottor Crepaldi? Allora, sicuramente quando si fanno gli accertamenti diagnostici e risulta praticamente che non c'è nulla o quasi nulla, sono proprio i casi che si devono trattare con gli aghi, perché vuol dire che praticamente il problema sta proprio nei livelli energetici, sì. Il dolore nasce da una cosa che non si è ancora materializzata. E, per cui, ad esempio, questo caso qui assolutamente bisogna trattarlo con gli aghi, ecco. Oppure in casi acuti li trattiamo anche con l'auricoloterapia. Ecco, è un capitolo affascinante l'auricoloterapia, perché ce la spiega un po', dottor Crepaldi? L'auricoloterapia è un capitolo affascinante perché da un punto di vista teorico si pensa, che poi dopo è dimostrato anche nella pratica, che nell'orecchio ci sia la mappatura del corpo umano. Sì, un piccolo corpo in scala. Un feto capovolto. E quindi praticamente abbiamo dei punti nell'orecchio che corrispondono alle varie aree dell'organismo, diciamo così, c'è il punto dell'anca, il punto della... Allora, diciamo a Paola dov'è il punto dell'anca, che così magari se lo si massaggia un po' l'orecchio e poi va da un medico agopuntore che è in grado poi di mettere quei piccoli semi o magneti che premendo fanno... Vanno cercati questi punti, perché il punto che... allora, noi abbiamo un dolore fisico nel nostro corpo e c'è il punto doloroso corrispondente nell'orecchio. E in genere corrisponde proprio alla zona, in questo caso l'anca è nella zona dell'antielice in alto, e praticamente c'è proprio uno strumento apposito dove si va a cercare il punto doloroso, poi no, si possono mettere anche più punti, se ne vanno, si fa Quindi l'anca è in alto, e scendendo cosa troviamo? Diamo qualche punto. Scendendo si trova la zona lombare. Perché vedo già Laura Vanossi che si massaggia l'orecchio, lo fa a caso, anche perché lei comunque è giovane come l'acqua, di dolori non ne ha, ma ci dia qualche punto... L'altro punto della zona cervicale è invece in basso, nell'antielice in basso. La spalla, ad esempio, è nella zona della scafa, nella fossa scafoide. Cioè? Praticamente è un pochino più esterno rispetto il lobo, che magari è più piacevole, più facile da massaggiare. Noi, ad esempio, donne che portiamo gli orecchini, tante volte togliendo gli orecchini ci massaggiamo i lobi. Che cosa attiva? Nel lobo c'è l'attivazione della lingua, degli occhi, delle tempie, ad esempio, se c'è una cefalea temporale. Insomma, però l'orecchio... L'occipite, però è molto complesso, detto poi per radio è ancora più complesso, bisognerebbe vedere la mappatura. Però è magnifico, è molto affascinante. Io vorrei chiudere con una buona notizia, perché c'è uno studio molto interessante che ha misurato l'efficacia degli aghi per il trattamento del dolore del fuoco di Sant'Antonio. In linea con noi abbiamo il dottor Lucio Pippa, presidente della Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'innovazione e la ricerca in medicina di Pescara. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Dottore, il fuoco di Sant'Antonio, non a caso si chiama fuoco, è dolorosissimo. Sì. Gli aghi, questo dolore lo spengono nel momento acuto o dopo, come prevenzione di una recidiva? Lo studio che noi abbiamo completato qualche mese fa e che stiamo analizzando da un punto di vista dei risultati ha dimostrato che l'agopuntura è efficace non solo nella nevralgia postherpetica, ma a maggior ragione nella fase acuta. Sì. Ancora, diciamo, adesso ripeto, i dati definitivi li stiamo esaminando anche alla luce dei follow-up, però di fatto anche addirittura superiore alle terapie classiche antalgiche, sì, alle infiltrazioni locali, analgesici vari tipi di analgesici minori, fino agli oppioidi, fino addirittura agli anestesici. Quindi tratta nella fase acuta e poi anche successivamente, quando il dolore ritorna. Curare l'ammalato prima che lo diventi. Prima che lo diventi, un concetto che ci ha detto anche, ci ha passato anche il dottor Renato Crepaldi. Allora, dottor Pippa, grazie per la buona notizia, intanto l'aspettiamo per i dati definitivi, io la saluto, ringrazio anche il dottor Crepaldi per essere stato con noi, grazie dottor Crepaldi, se avete grazie ancora delle domande, essere benessere @radio24.it, un saluto da Nicoletta Carbone, un appuntamento per domani, dopo il GR delle 11 vi aspetto, buonissima giornata.